voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Peter Thun, una fiaba di famiglia. Di Anna Marino. La filosofia aziendale che è stata creata ancora nel 1950, questa aveva valore 60 anni fa e ha valore ancora adesso. In due righe i genitori allora scrivevano: nel nostro mondo di fiaba facciamo rivivere l'emozione dell'infanzia, i sogni, la magia e il calore. Attraverso i nostri prodotti fatti a mano, le immagini e i nostri comportamenti li trasformiamo in realtà da vivere ogni giorno, portando gioia con il cuore a noi e agli altri. Ebbene, queste sono cinque righe scritte dai genitori nel 1950 che hanno validità a tutti gli effetti ancora oggi, e in caso i miei figli domani dovessero portare avanti l'azienda, mi auguro che ancora tra 50 anni siano il leitmotiv, siano la filosofia aziendale. Peter Thun, presidente dell'omonima azienda produttrice di articoli da regalo e oggetti in ceramica, nasce nel 1955 a Bolzano, dove i suoi genitori, i conti Otmar e Elene Thun, aprono il primo laboratorio di ceramica nello scantinato del loro castello Klabenstein. Peter Thun, a soli 23 anni, entra in azienda e ne assume la gestione. In 20 anni porta la piccola impresa artigiana a diventare una delle maggiori holding a livello internazionale, la cui sede principale si trova dal 2002 in Olanda. Oggi il marchio Thun è presente in tutto il mondo, con 3.100 punti vendita, 50 negozi monomarca, oltre 4.000 dipendenti e un fatturato di 163 milioni di euro. La storia di Thun, però, inizia oltre i confini dell'Italia, nella vicina Austria, e Peter Thun la racconta come una favola di famiglia. È senz'altro una partenza fiavesca nata nell'immediato dopoguerra, cioè nel 1950, quando mio padre, che proviene dall'Austria, io stesso sono ancora nato in Austria, lascia il proprio paese per recarsi un po' più verso sud. Non arriva molto lontano, arriva appena nell'Alto Adige, ma l'Alto Adige senz'altro verso il Nord Tirolo è già una forte rappresentanza verso il sud, con più sole, più soleggiato, e una mentalità diversa, rappresenta due culture, è l'incrocio tra due culture, e questo era il fascino di mio padre, ed era anche il fascino iniziale dell'azienda, dove le due persone, quindi mio padre e mia madre, lui giurista, mia madre architetto, decidono di abbandonare il loro lavoro nonostante fosse un immediato periodo del dopoguerra per dedicarsi alla loro passione. La loro passione era quello di creare con le proprie mani degli articoli, dei prodotti tridimensionali, delle piccole sculture che poi si sono moltiplicate in una fase, direi, solo successivamente industriale, un po' più artigianale, avanzata, per diventare l'azienda che oggi è. Nel primo laboratorio della storia, Thun, con due collaboratori, danno vita alle prime creazioni. Vasi, ciotole e brocche fatti a mano, che incontrano subito grande successo, soprattutto tra i turisti che in quegli anni iniziano a visitare l'Alto Adige. Le ricorda Peter Thun ed emerge dalle sue parole come è nata l'idea delle prime figure fiabesche. I prodotti all'inizio erano figure come angeli, erano animali, erano posaceneri, quindi erano delle cose più o meno funzionali, decorative, così come lo erano anche delle stufe in ceramica, le cosiddette stufe ad olle, le stufe in ceramica che ancora oggi si trovano sul mercato. Singole icone, singole figure, e qui mi riferisco a racconti perché era troppo piccolo a poterlo testimoniare, e che mia madre ha modellato i propri figli quando dormivano, e da lì sono nati questi angeli baffuti, da lì sono nati altre icone che o in famiglia o nella tradizione locale altoatesina mia madre ha trovato. La richiesta di prodotti aumenta, arrivano nuovi collaboratori e ispirazioni. Nasce l'Angelo Laudante, che sarà conosciuto in tutto il mondo come l'Angelo di Bolzano. Il primo successo era molto semplice, dal momento che lo scantinato del castello Klemstein, dove è nata l'azienda, era all'incrocio di due passeggiate molto frequentate soprattutto da turisti e soprattutto da turisti tedeschi nel 1950, 52, 55. I turisti tedeschi, vedendo queste piccole figure in una piccola vetrinetta che era veramente non più grande di un portalettere, portavano con sé queste figure, e da lì è nato l'angelo originale di Bolzano, perché ricordava la loro presenza a Bolzano. Era veramente uno scantinato, quindi dei ricordi molto fiaveschi, perché i genitori lavoravano in uno scantinato, noi stesso si viveva in parte di questo castello che non era di proprietà della famiglia, perché è una situazione estremamente difficile da un punto di vista economico, visto che la nostra famiglia, anche se ha delle origini del 1070 in Val di Non, quindi abbiamo quasi 1000 anni di storia, purtroppo il nostro ceppo in tutte le guerre ha sempre perso tutto. Forse adesso a posteriori possiamo dire che è stata una nostra fortuna, in quanto non c'era spazio di sdraiarsi sugli allori della tradizione, della storia familiare, ma ogni volta si è dovuto ripartire da zero e quindi inventarsi una professione che nel caso dei miei genitori non era solo una professione, ma era anche soprattutto la loro passione. A questo punto siamo di fronte a un'azienda che, ingrandendosi, si trasferisce in un maso storico, protetto dalle belle arti, ad Aslago, vicino a Bolzano. I collaboratori salgono a 300 e la produzione si allarga con porcellane da tavola e oggetti decorativi per la casa. Peter Thun si sofferma a ricordare questa svolta. Il passo senz'altro non era facile, in quanto vedevo i miei genitori fare un passaggio dalla piccolissima azienda artigianale di 3 persone a un'azienda che nel 78 contava 60 persone. Questo passaggio non era facile, in quanto l'artigiano evoluto non deve fare soltanto colui che produce, ma colui che amministra, colui che gestisce un management, colui che vende. Allora non c'era lo spazio ancora per assumere dei responsabili per tutte queste funzioni. Peter Thun, secondogenito della coppia, dopo la maturità frequenta a Torino la scuola manageriale d'amministrazione industriale. Entra presto in azienda, nel 1978 ha 23 anni, e la sua formazione diventa determinante anche nel tradizionale settore della ceramica. Dopo la scuola superiore ho frequentato la scuola amministrazione industriale a Torino, in quanto il mio interesse verso la ceramica non era troppo evoluto. Mio fratello maggiore ha studiato architettura, ha fatto design, quindi era senz'altro molto più propenso a buttarsi in un mestiere dove la passione, dove la creatività era la parte principale. Mio fratello ha deciso nel 78 di non volersi dedicare all'azienda familiare, ma dedicarsi al proprio studio di architettura, che poi è aperto a Milano. Questo direi è stato senz'altro uno dei momenti importanti. Il secondo momento importante era l'apertura da parte dei miei genitori, che mi hanno lasciato un immenso spazio. Io sono entrato nel 78, mio padre mi ha affiancato ancora per 2 anni, mia madre mi ha affiancato per 2 decenni. Quindi ho avuto la possibilità di avere un affiancamento graduale da un lato, e nello stesso momento avere anche la garanzia che i valori coi quali è nata l'azienda, questi valori intangibili, come lei lo chiamava prima, questo mondo fiabesco, fosse costantemente mantenuto, monitorato e quindi garantito anche per il futuro. Questa è una grande sfida che io ho verso il futuro. Prima di arrivare in azienda, però, il segreto del successo di Peter e della sua attività è stato, come lui stesso indica, il forte e appassionato allenamento nel settore dello sport. Maestro di vita e aspetto fondamentale della sua personalità, lo sport agonistico non è soltanto una parentesi, ma lo porta a fondare, nel 1976, It's Time to Fly, un'azienda che organizza voli pubblicitari in deltaplano e vince numerosi premi con il Toons Racer, società che produce e commercializza articoli sportivi. Senz'altro lo sport è un allenamento importante per la vita, per superare se stesso e per superare il proprio limite. Ho avuto la possibilità di praticare molti sport, ho avuto la possibilità di partecipare a campionati nazionali, vincerli, passare a quelli mondiali, quindi è stata una formazione estremamente importante per il futuro della mia azienda. Oggi per me l'azienda è parte anche della mia attività sportiva, nel senso che superare il proprio limite in termini di obiettivi personali, ma anche quelli aziendali, e quindi anche verso quelli dei collaboratori, direi che è uno stile non solo di vita, ma uno stile aziendale. Peter Thun spiega se esiste un passaggio di consegne morbido in azienda e se esiste un metodo ottimale per lasciare spazio alle nuove generazioni. Una ricetta per un cambio generazionale penso che non ci sia, in quanto noi tutti imprenditori siamo delle bestie molto rare e molto diverse una dall'altra. Se mi guardo d'intorno cosa hanno fatto i miei amici, ne ho visto di tutto di più. Nel caso mio personale ho avuto una situazione estremamente favorevole perché i genitori a distanza di 24 mesi, io ancora giovanissimo, non avevo 25 anni, mi hanno dato la totale responsabilità, che era molto allettante da un lato, ma dall'altra parte richiedeva un grande spirito anche di responsabilità affinché venissero mantenuti quelle che erano le origini aziendali. Se parliamo di ricetta, questo era una gestione, direi, naturale di un passaggio generazionale. Se lo si riesce a fare con uno spirito un po' più consapevole, allora il passaggio generazionale lo vedo leggermente diverso, lo vedo così come lo vorrei gestire con i miei figli che ormai hanno 21 e 23 anni, dove ritengo che per i prossimi anni ci sia ancora poco spazio fino a quando non hanno solo maturato un'esperienza teorica, ma soprattutto un'esperienza pratica in delle aziende che possono essere totalmente diverse, ma affinché possono apportare una nuova cultura aziendale, però nello stesso momento il sottoscritto che deve portare avanti ancora lo spirito iniziale riguardante i valori aziendali. Un altro aspetto della vita di un imprenditore è quello che segna lo spartiacque tra il versante personale e quello lavorativo. Ecco per quale sentiero Peter Thun attraversa questo valico montuoso e a volte difficile da percorrere. Ho ereditato dei principi molto forti e ho aggiunto e sviluppato ulteriori principi miei, conscio che la vita del lavoro da solo non esiste, se non affiancato da un giusto bilanciamento. Il bilanciamento lo vedo, punto uno, nella famiglia, che è una fonte immensa in termini di non solo ricarica di batteria, ma anche di confronto, soprattutto adesso che i figli sono cresciuti. Da un lato, dall'altro lo sport, o meglio io lo definisco le colonne della salute, che incominciano dalla psiche, che vanno al movimento, che vanno all'alimentazione. Peter Thun è da sempre testimone di grandi cambiamenti che danno corpo ai valori aziendali. Nel 1995 Thun Ceramica SRL diventa Thun SPA. Il boom della produzione tocca il suo apice. In 4 anni la produzione cresce del 180%, ma i punti fermi restano gli stessi. Mi sono reso conto abbastanza presto, quindi verso gli anni 80-82, che i valori tangibili del nostro marchio erano abbastanza sottili e quindi il nostro marchio si basava soprattutto su dei valori intangibili. Anche se la produzione aziendale ha raggiunto dimensioni industriali, la tecnica e la cura con cui vengono create le ceramiche resta artigianale. E nascono nuove iniziative, il Thun Club e il Thuniversum, grande store multisensoriale. Nel 2008 nasce la fondazione Contessa Lene Thun Onlus, un'organizzazione senza scopo di lucro e di utilità sociale. Il motto è una frase della Contessa: con le mani e con il cuore, aiutiamo gli altri con la gioia della modellazione ceramica. La fondazione usa la modellazione dell'argilla come strumento terapeutico e nel 2009 ha realizzato più di 50 progetti e corsi in Alto Adige e nella vicina provincia di Trento e a Mantova, ma anche in Italia e nel mondo. Peter Thun sottolinea l'attenzione verso gli altri, i clienti e i dipendenti, ma anche verso le persone in situazioni di svantaggio e disagio. Mi sono arrivate lettere e un bel giorno mi sono messo a tavolino con mia madre e ho detto: non è possibile che tu debba rispondere in prima persona ormai a centinaia di lettere, perché dobbiamo stoppiarti. È lì che è nato l'idea di creare il Thun Club, che ormai conta quasi 100.000 iscritti. È una scelta maturata soprattutto dopo la morte di mia madre nel 2004, dove mi sono chiesto come tramandare anche ad altre persone questa passione, questa ceramoterapia, così come l'ha chiamata mia madre, perché di notte creava nuovi modelli e di giorno lavorava in azienda, e mi sono sempre chiesto da dove prende questa grande carica. Rimane forte anche per il futuro. Anche attraverso la crisi e la globalizzazione, questo messaggio di solidarietà e di altruismo che Peter Thun porta nel cuore e nelle mani come sua madre, che va oltre il regalo e il dono, portando anche gioia e vere svolte nella vita di chi ha bisogno. Ci sono un'infinità di settori della nostra società dove un pezzettino di argilla che viene modellato con le proprie mani ha un effetto straordinario. Mi ricordo un aneddoto pesante dove un ragazzo di 32 anni che da 8 anni non parlava più, dopo circa 2 mesi di terapia con la ceramica, con l'argilla, ha incominciato a comunicare. Oggi è diventato uno dei nostri tutor che a sua volta insegna questo mestiere. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.